Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Quando si parla di ferrovie di solito se ne parla male, un po' come sparare sulla Croce Rossa si può dire. Questa volta invece ne parliamo bene perché la settimana scorsa, il 21 di maggio, è entrato in vigore un decreto che tutela i passeggeri, almeno un po', poi i passeggeri e i pendolari di problemi ne hanno comunque tanti. Parliamo di queste novità col presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dunque, finalmente per le ferrovie una notizia positiva, per i passeggeri perlomeno. Si parla sempre dei ritardi che continuano a esserci, dei treni che vengono soppressi, degli scioperi e di tutti questi disagi, orario cadenzato, aumento dei biglietti che c'è stato anche in questo mese di maggio. In cosa consiste questa novità entrata in vigore il 21 maggio? Sì, come hai detto te, è entrata in vigore qualche giorno fa, non certamente come spesso, per non dire sempre accade, per merito dei nostri buoni politici, ma semplicemente perché è l'Europa ad obbligarcelo a recepire questa normativa europea, che non è la prima, anzi l'ennesima, a favore dei consumatori, e che però chiaramente ha costato all'Italia anche un deferimento alla Corte di Giustizia europea, perché come al solito noi siamo sempre gli ultimi a recepire le cose. E si tratta di una normativa che vanno a tutelare maggiormente quelli che sono un po' i viaggiatori che utilizzano il treno, perché fino ad oggi è risultato che in Italia esiste veramente un vuoto che coinvolge tutti i passeggeri, dalle informazioni che ormai sempre meno siamo abituati a ricevere da parte delle compagnie, ma anche da quelli che sono i problemi dall'assicurazione sul bagaglio, alla bici portata in treno, se manca il biglietto, la possibilità di fare il biglietto a bordo, tutti i diritti che comunque sulla carta i viaggiatori delle ferrovie hanno, ma che spesso rimangono lettere morte, e che soprattutto rimangono lettere morte quando si cerca di ottenere un riscontro a quella che è un proprio reclamo, e che sostanzialmente è più la perdita di tempo che va a far desistere i consumatori ad andare avanti sulla pratica che non quelli che poi sono i doveri, che non si capisce mai quali sono. Ci sono multe, adesso più di lamentarci per i ritardi o per di servizi non possiamo fare, al massimo la regione compensa con degli sconti sugli abbonamenti nell'anno successivo, ma ci sono delle multe molto corpose nei confronti di chi, appunto, l'azienda che eroga il servizio ferroviario viola certe normative. Vediamo di entrare nello specifico su queste multe. Sì, parliamo di multe veramente molto importanti, perché per esempio chi viene meno all'obbligo di assicurazione minima rischia un'ammenda che va dai 50.000 ai 150.000 euro, chi non rispetta l'obbligo dei pagamenti anticipati in caso di decesso o lesioni di un passeggero rischia dai 20.000 ai 40.000 euro, o in caso di decesso dai 10.000 ai 20.000 euro. In caso di lesioni, chi si rende colpevole di mancata assistenza ai viaggiatori si rischia dai 2.000 ai 10.000 euro. Per chi non consente il trasporto di biciclette, dove è possibile, la multa può arrivare fino a 1.000 euro, da un minimo di 200. Dunque le multe ci sono, e quindi abbiamo ancora maggior diritto di chiedere queste cose. Altre novità che sono contemplate in questa normativa europea, e pochi giorni fa abbiamo rinnovato proprio il Parlamento che decide queste leggi. Sì, poi volevo anche dirti, Mirko, che è una cosa molto interessante che capita spesso, qualora anche dove solo temporaneamente non sia disponibile la stazione di partenza o in prossimità della stessa la vendita di biglietti e l'acquisto degli stessi, che anche per un servizio certamente il biglietto deve essere rilasciato a bordo senza nessun sovrapprezzo, cosa che oggi sostanzialmente non è, perché sappiamo benissimo che addirittura un biglietto a bordo può arrivare a costare il 30% in più. Quindi lì dove ovviamente non magari la macchinetta non funziona, oppure dove non è possibile comprarlo, c'è questa possibilità di farlo anche a bordo senza sovrapprezzo e senza il timore di essere multati. Esatto, però Mirko, volevo anche far presente come queste sanzioni non è che vanno al consumatore, certo, se sporge denuncia, che magari tanti stanno già strofinandosi le mani, ma andranno su un fondo per finanziare progetti a vantaggio dei consumatori nel servizio dei trasporti. Quindi ecco, sono delle sanzioni che alla fine pagheranno le compagnie, ma non direttamente al consumatore, ma che comunque sicuramente li indurranno a migliorare quello che è uno standard di qualità che oggi sostanzialmente non esiste. Ecco, è importante saperlo, anche perché con l'arrivo della stagione estiva il treno viene utilizzato più spesso o in modo diverso, in quantità diversa rispetto a quanto avviene diciamo nella parte normale dell'anno, da settembre fino a giugno. Questa è una boccata di ossigeno, insomma, per i passeggeri pendolari e non che utilizzano i treni, ma è proprio poco rispetto al resto del panorama. Penso soprattutto al trasporto regionale, perché poi anche sulle lunghe percorrenze ci sarebbe da dire, ma sostanzialmente quel servizio almeno è abbastanza garantito. Certamente, io poi, Mirko, ti parlo anche da pendolare, e oggi veramente parlare di servizi efficienti a livello regionale, ma anche per chi magari capita di andare a Milano, che sostanzialmente non esiste l'alta velocità, veramente ormai dobbiamo dire che il sistema ferroviario è abbastanza allo sbando. Certo, una normativa che dobbiamo dire ci voleva, è una normativa che siamo anche contenti di leggere anche noi, che è stata recepita così velocemente, e sicuramente speriamo che questi effetti li possiamo sortire già nell'immediato. Ecco, chiudiamo segnalando una curiosità che è anche un po' amara di questi giorni: la ferrovia che arriva a Calalzo, quindi in provincia di Belluno, quella che parte da Padova e passa per Castelfranco Veneto, compie 100 anni, ma festeggia questi 100 anni senza treno, perché il treno lì non ci arriva dalle nevicate da quella di Santo Stefano, quindi c'è anche questo paradosso. Ringraziamo l'Adico per queste importanti informazioni sui treni, normativa europea appena entrata in vigore per i diritti dei passeggeri. Settimana prossima, con il mese di giugno, altri due argomenti. Grazie Carlo Garofolini, presidente Adico, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, associazione difesa consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.